accetto nel tuo barbaro petto, che se fedele tu fossi, a che crudele esser così, con chi non è infedele. Innumi, sì, innumi, volgon pietosi lumi a chi gli offre devoti incensi, preghi e voti. Ma tu, barbaro core, non ascolti li preghi, pietà de anche nieghi, a chi sol per pietà.